Il terzo anello, ad alta voce. Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Tolstoi scrisse Guerra e pace tra il 1862 e il 1869. Un tempo brevissimo se si pensa all'ampiezza, alla ricchezza e alla complessità di quest'opera. L'arco di tempo coperto dal racconto va dal 1805 al 1820 e si struttura attorno a tre nuclei cronologici principali. Dal 1805 al 1806, che è la descrizione del tempo della vita pacifica a Mosca e a Pietroburgo e in cui si delineano la maggior parte dei personaggi principali. Poi dal 1811 al 12, che è la guerra, con l'occupazione di Mosca e la ritirata di Napoleone e la guerra partigiana. E infine, 1812-1820, l'epilogo, in cui si tirano le fila delle vicende di tutti i personaggi. A parte quelli storici, come Napoleone, Alessandro II, il generale Kutuzov e altri, la finzione tolstoiana si accentra principalmente sulle vicende dei componenti di due famiglie, i Rostov e i Balkonski, e sulla figura di Pierre Bezukhov, che fa, per così dire, da ponte tra queste due famiglie. Con la ricchezza di tutti i suoi registri, principalmente epici, ma anche lirici, drammatici, filosofici e così via, Guerra e Pace è un libro meravigliosamente lungo, e pur avendo noi a disposizione 40 puntate, esse ne possono contenere soltanto una parte, quindi inevitabilmente è stato necessario tagliare, scegliere e anche riassumere. Io ho cercato naturalmente di conservare sia la continuità del racconto, garantendo però anche all'ascoltatore la possibilità di ascoltare le pagine particolarmente significative anche da un punto di vista estetico. Una delle grandi forze di questo libro è la ricchezza e la varietà linguistica. Ogni personaggio, vedrete, a seconda della sua classe sociale o anagrafica o a seconda della sua provenienza e così via, parla una lingua diversamente caratterizzata. Purtroppo, inevitabilmente, le traduzioni appiattiscono questa ricchezza, di cui però qualcosa possiamo cogliere, per esempio, nell'uso che molti personaggi fanno della lingua francese. E proprio in francese è la battuta d'apertura del romanzo, che sboccia sulle labbra di Anna Pavlovna, che nel bel mezzo di un suo ricevimento, tra lo sfavillio e la falsità dei rapporti mondani, in una scena davvero di gusto teatrale, dove tutti sembrano indossare delle maschere, si rivolge al principe Vassili. Eh bien, mon prince, Jeanne et Luc ne sont plus que des apanages, des propriétés de la famille Bonaparte. Non, je vous préviens que si vous ne me dites pas que nous avons la guerre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet antichrist, je ne vous connais plus. Vous n'êtes plus mon ami. Vous n'êtes plus il mio fedele schiavo, comme vous dites. Sous, sous. Benvenuto, benvenuto. Je vois que je vous fais peur. Sedete e raccontate. Ecco, le parole di Anna Pavlovna, damigella dell'imperatrice, che qui si rivolge al principe Vassili, centrano subito il nodo politico della situazione, il conflitto tra chi sostiene la necessità di combattere Napoleone e chi la rifiuta. Genova e Lucca non sono ormai che possedimenti della famiglia Bonaparte. E se voi tentate di giustificare tutte le infamie, tutte le atrocità di questo anticristo, io non vi riconosco più, voi non siete più il mio amico. Questo più o meno il senso delle parole di Anna. Ma riprendiamo la nostra lettura. Mon Dieu, che uscita violenta! Rispose, senza punto confondersi a quell'accoglienza, il principe, che entrava in uniforme ricamata di corte, con calze di seta, scarpini, decorazioni e un'espressione radiosa sul viso volgare. Egli parlava in quel francese ricercato nel quale non soltanto parlavano, ma pensavano i nostri nonni, e con quei toni sommessi di protezione che sono propri di una persona importante, invecchiata nella società e alla corte. Si avvicinò ad Anna Pavlovna, le baciò la mano, curvando verso di lei la sua profumata e lucida calvizie, e tranquillamente sedette sul divano. Il principe Vassili parlava sempre con indolenza, come un attore che recita la sua parte in una vecchia commedia. Anna Pavlovna Scherer, al contrario, a dispetto dei suoi 40 anni, era piena di vivacità e di slanci. L'essere entusiasta era diventato la sua funzione sociale, e a volte, anche quando non l'avrebbe voluto, per non deludere l'aspettativa delle persone che la conoscevano, si mostrava entusiasta. Il sorriso trattenuto che aleggiava continuamente sul viso di Anna, benché non si addicesse ai suoi tratti appassiti, esprimeva, come nei fanciulli viziati, la costante consapevolezza di questo grazioso difetto, del quale essa non voleva, non poteva e non riteneva necessario correggersi. Nel bel mezzo di una conversazione sugli avvenimenti politici, Anna Pavlovna si accalorò. «Ah, non mi parlate dell'Austria. Io non capisco nulla, forse, ma l'Austria non ha mai voluto e non vuole la guerra. Essa ci tradisce. La Russia sola deve essere la salvatrice dell'Europa. Al nostro buono e meraviglioso sovrano tocca rappresentare la parte più grande che ci sia al mondo. Ed egli è così buono e pieno di virtù che Dio non lo abbandonerà. Ed egli compirà la sua missione, schiacciare l'idra della rivoluzione, che ora è anche più spaventevole nella figura di questo assassino, di questo malfattore. Noi soli dobbiamo riscattare il sangue del giusto». Essa si fermò tutto un tratto con un sorriso di canzonatura per la propria fuga. «A proposito», riprese ridiventando calma, «stasera avrò due personaggi molto interessanti. Il visconte di Mortemart, il letalier au Montmorency par les Rohan, è alleato ai Montmorency attraverso i Rohan, una delle migliori famiglie di Francia. È uno dei buoni emigrati, dei veri. E poi l'abate Morio. Conoscete questo spirito profondo? È stato ricevuto dall'imperatore, lo sapete?» «Ah, ne sarò lietissimo», disse il principe. «Ditemi», aggiunse, come se soltanto in quel momento si ricordasse di una cosa, con molta negligenza, mentre in ciò che domandava era il motivo principale della sua visita. «È vero che l'imperatrice madre desidera la nomina del barone Funke a primo segretario a Vienna?» Il principe Vassili desiderava che suo figlio fosse mandato a quel posto, che, per mezzo dell'imperatrice, si tentava di ottenere per il barone. «Io spesso penso», disse Anna Pavlovna dopo un momento di silenzio, avvicinandosi al principe e sorridendo carezzevolmente, come per mostrare con ciò che i discorsi politici e mondani erano finiti e che ora cominciavano quelli intimi, «io spesso penso come sono a volte distribuite ingiustamente le gioie della vita. Perché la sorte vi ha dato due figli così eccellenti? Escludendo Anatol, il vostro figlio minore, quello non mi piace», aggiunse in tono perentorio, inarcando le sopracciglia. «Due figli così deliziosi, e voi davvero li apprezzate meno di noi tutti, e perciò non li meritate. Sapete, sono scontenta del vostro figliolo minore. Si è detto fra noi, si parlava di lui, da sua maestà, e vi compativano». Il principe Vassili si rannuvolò. «Che volete che faccia?» disse alla fine. «Lo sapete. Ho fatto per la loro educazione tutto ciò che un padre può fare, e tutti e due sono riusciti des imbéciles. Ippolite, almeno, è uno stupido tranquillo, ma Anatol è uno stupido irrequieto. Ecco la sola differenza», disse egli, sorridendo con maggiore affettazione e vivacità del solito, e intanto lasciando apparire nelle rughe che gli si formarono attorno alla bocca qualcosa di inaspettatamente volgare e sgradevole. «I miei figli, ce sont les entraves de mon existence, la mia croce. Che volevo?» Anna Pavlovna si mise a riflettere. «Voi non avete mai pensato ad ammogliare il vostro figliuol prodigo Anatol? Dicono», continuò, «che le vecchie zitelle ont la manie de mariage. Io non mi sento ancora questa debolezza, ma ho una personcina che è molto infelice con suo padre, una parente nostra, una principessa Balkonskaya. Il padre è molto ricco e avaro. Vive in campagna, sapete, è quel famoso principe Balkonski, un uomo molto intelligente, ma strano e difficile. La pauvre petite est malheureuse comme le pierre. Ha un fratello che ha sposato da poco Lise Meinen e che è aiutante di campo di Kutuzov. Quello verrà stasera da me. Écoutez, chère Annette», disse il principe, prendendo ad un tratto la sua vicina per la mano e tirandogliela, chissà perché, in giù. «Arrangez-moi cette affaire, et je suis votre fedelissimo schiavo à tout jamais. Essa è di buona famiglia, è ricca, tutto quello che ci vuole». E con quei gesti disinvolti, familiari e graziosi che lo distinguevano, prese la mano della damigella d'onore, la baciò e, dopo averla baciata, la scosse un poco, affondandosi nella poltrona e guardando da un'altra parte. Il salotto di Anna Pavlovna cominciava poco per volta a riempirsi. Venne la più alta aristocrazia di Pietroburgo, gente diversissima per età e per carattere, ma eguale per la società nella quale viveva. Venne la figlia del principe Vassili, la bellissima Hélène. Venne la giovane piccola principessa Balkonskaya, che si era sposata nell'inverno precedente e ora non andava ai grandi ricevimenti a cagione della sua gravidanza, ma però andava ancora alle piccole serate. Venne il principe Hippolyte, figlio del principe Vassili, con Mortemar che egli presentava. Vennero anche l'abate Morio e molti altri. La giovane principessa Balkonskaya era venuta col suo lavoro in una borsa di velluto ricamata in oro. Il suo bel abruzzo superiore, con appena un accenno di baffetti neri, era troppo corto sui denti, ma con tanta più grazia si sollevava e con più grazia ancora si allungava a volte, abbassandosi su quello inferiore. Come sempre accade nelle donne veramente attraenti, i suoi difetti, il labbro un po' corto e la bocca semiaperta, parevano una bellezza speciale, tutta sua. Era un piacere per tutti guardare quella bella futura mammina, piena di salute e di vivacità, che sopportava con tanta disinvoltura il suo stato. La piccola principessa, dondolandosi, girò intorno alla tavola a piccoli rapidi passi, con la borsa da lavoro al braccio, e accomodandosi allegramente il vestito, sedette sul divano, presso il samovar d'argento. «J'ai apporté mon ouvrage», disse, aprendo la borsa e rivolgendosi a tutti insieme. «Sapete, mio marito mi abbandona», continuò ella in francese, sul medesimo tono, rivolgendosi a un generale. «Va a farsi ammazzare». «Ma perché questa brutta guerra?» disse al principe Vassili, e senza aspettare risposta si rivolse alla figlia del principe Vassili, alla bella Hélène. Subito dopo la piccola principessa entrò un giovane grosso e massiccio, con la testa rasa, gli occhiali, dei pantaloni chiari alla moda di allora, un gran jabot e una marsina color cannella. Questo grosso giovanotto era il figlio naturale del famoso conte Bezukhov, un dignitario del tempo di Caterina, che ora era moribondo a Mosca. Egli non aveva ancora prestato servizio in nessun posto. Era giunto allora allora dall'estero, dove era stato educato e andava in società per la prima volta. Anna Pavlovna lo ricevette col saluto riservato alle persone della più bassa gerarchia nel suo salone. Come il padrone di una filanda, dopo aver messo i lavoranti ai loro posti, passeggia per lo stabilimento e, notando che un fuso sta immobile o fa un rumore inusitato, stridulo, troppo forte, va in fretta per arrestarlo o spingerlo secondo il bisogno, così anche Anna Pavlovna, passeggiando per il suo salotto, si avvicinava a un gruppo dove si taceva o dove si parlava troppo e con una parola o con un piccolo spostamento tornava a far funzionare in modo regolare e conveniente la macchina dei discorsi. Ma in mezzo a queste cure era sempre visibile in lei un particolare timore per la condotta di Pierre. Per questi, educato all'estero, quel ricevimento di Anna Pavlovna era il primo al quale assistesse in Russia. Egli sapeva che lì era raccolto tutto l'ingegno di Pietroburgo e ne aveva gli occhi abbagliati, come capita ad un bambino in una bottega di giocattoli. Entrò nel salotto il giovane principe Andrei Balkonski, marito della piccola principessa. Era un giovane di non alta statura, molto bello, di tratti accentuati e asciutti. Tutto nella sua figura, cominciando dallo sguardo stanco e annoiato fino all'andatura tranquilla e misurata, presentava il contrasto più forte con la sua piccola e vivace moglie. Si vedeva che quanti si trovavano nel salotto non soltanto gli erano noti, ma già l'avevano stuccato al punto che il solo vederli e ascoltarli era per lui una grande noia. Ma di tutte quelle facce venutegli a noia, pareva essergli venuta a noia più di tutte quella della sua bella moglie. Con una smorfia che guastava il suo simpatico viso, egli le voltò le spalle. Baciò la mano ad Anna Pavlovna e, aggrottandosi, guardò in giro tutta quella gente. Pierre, che dal momento dell'entrata del principe Andrei nel salotto non aveva distolto da lui i suoi sguardi allegri e amichevoli, gli si avvicinò e gli prese la mano. «To, anche tu nel gran mondo?» disse il principe a Pierre. «Sapevo che sareste venuto», rispose Pierre. «Verrò a cena da voi, posso?» «No, non puoi», disse il principe Andrei ridendo, mentre faceva capire a Pierre con una stretta di mano che non c'era bisogno di fare quella domanda. In quel momento si alzò il principe Vassili con la figlia e i due giovani si levarono in piedi per farli passare. La principessina Hélène, tenendo leggermente con la mano le pieghe del vestito, passò in mezzo alle sedie e il sorriso splendeva ancora più luminoso sul suo bellissimo viso. Pierre guardava con occhi incantati e quasi spaventati quella bellezza mentre gli passava davanti. «Molto bella», disse il principe Andrei. «Molto», disse Pierre. Passando, il principe Vassili prese Pierre per la mano e, rivolgendosi ad Anna Pavlovna, «Educatemi quest'orso», disse. «Ecco un mese che abita da me ed è la prima volta che lo vedo in società. Niente è così necessario ad un giovane come la compagnia delle donne intelligenti. Anna Pavlovna sorrise e promise di occuparsi di Pierre, che la sapeva essere imparentato per via del padre col principe Vassili. Una signora attempata si alzò in fretta e raggiunse il principe Vassili nell'anticamera. «Che cosa mi dite, principe del mio Baris?» disse ella. «Io non posso rimanere più a lungo a Pietroburgo. Ditemi quali notizie posso portare al mio povero ragazzo». Benché il principe Vassili ascoltasse malvolentieri e quasi scortesemente la vecchia signora e mostrasse anche la sua impazienza, ella gli sorrideva in modo carezzevole e commovente, e perché non se ne andasse lo prese per il braccio. «E che vi costa dire una parola all'imperatore? Subito lo passerebbero nella guardia», ella diceva con tono di preghiera. La vecchia signora portava il nome di principessa Drubetskaya, uno dei migliori casati della Russia, ma era povera. Si era da gran tempo ritirata dalla società e aveva perduto le sue relazioni di una volta. Era venuta adesso per ottenere la destinazione in un reggimento della guardia del suo unico figliolo. Soltanto per poter vedere il principe Vassili si era invitata ed era venuta alla serata di Anna Pavlovna. «Ascoltate, principe», disse ella, «io non vi ho mai chiesto nulla, non vi chiederò mai nulla, mai vi ho ricordato l'amicizia che mio padre aveva per voi, ma ora ve ne scongiuro in nome di Dio, fate questo per mio figlio e sarete il mio benefattore», aggiunse in fretta, sforzandosi di sorridere, mentre aveva le lacrime agli occhi. «Papà, facciamo tardi», disse, girando la sua bella testa sulle classiche spalle, la principessina Hélène, che aspettava presso la porta. «Ma l'influenza nel mondo è un capitale che bisogna risparmiare perché non si dissipi. Il principe Vassili lo sapeva, e avendo capito una volta che, se avesse chiesto per tutti, presto gli sarebbe stato impossibile chiedere qualcosa per sé, raramente usava della sua influenza. Nel caso della principessa Drubetskaya, però, egli sentì, dopo la sua nuova implorazione, qualcosa che somigliava a un rimorso di coscienza. Ella gli aveva ricordato la verità. I primi suoi passi nella carriera egli li doveva al padre di lei. Oltre a ciò, egli vedeva dal suo modo di fare che ella era una di quelle donne, e specialmente di quelle madri, che, una volta che si sono messe qualcosa in capo, non ristanno finché non abbiano ottenuto il loro intento, e in caso contrario sono pronte a insistere ogni giorno, ogni minuto, e anche a fare scene. Quest'ultima considerazione lo scosse. «Cher Anna Mikhailovna, mi è quasi impossibile fare quello che volete. Ma per dimostrarvi che vi voglio bene e che onoro la memoria del vostro defunto padre, farò l'impossibile. Vostro figlio sarà trasferito nella guardia, ve lo prometto. Siete contenta? Oh, mio caro, siete il mio benefattore. Non mi aspettavo meno da voi. Sapevo come siete buono». Egli fece per andarsene. «Aspettate, due parole. Voi siete in buoni rapporti con Mikhail Ilarionovich Kutuzov? Raccomandategli Baris perché lo prenda come aiutante di campo. Allora sarei tranquilla e allora...» Il principe Vassili sorrise. «Questo non ve lo prometto. Voi non sapete come tutti assediano Kutuzov da quando è stato nominato comandante in capo. Egli stesso mi ha detto che tutte le signore di Mosca si sono intese per dargli i loro figli come aiutanti di campo. Ma no, promettetemelo. Non vi lascio andare, caro benefattore mio. Papà», interruppe di nuovo col medesimo tono la bella principessina, «facciamo tardi. Su, au revoir, addio. Vedete... Dunque, domani parlerete all'imperatore? Senza fallo. Ma per Kutuzov non prometto. No, promettetemelo, Basil», gli gridò dietro Anna Mikhailovna, con un sorriso di giovanile civetteria che una volta doveva esserle abituale, ma che ora stonava sul suo viso consunto. Ringraziata Anna Pavlovna per la sua charmante soirée, gli ospiti cominciarono a separarsi. Pierre era impacciato. Non sapeva entrare in un salotto e ancora meno uscirne, cioè non sapeva, prima di andarsene, dire qualche parola un po' garbata. Ma tutta la sua incapacità ad entrare in un salotto e a conversare erano compensate da un'espressione di bonomia, di semplicità e di modestia. Il principe Andrei era uscito nell'anticamera e, tendendo le spalle al domestico che gli gettava addosso il mantello, ascoltava con indifferenza il chiacchierio di sua moglie col principe Hippolyte, che era uscito anche lui nell'anticamera. «Siete pronta?» domandò alla moglie, percorrendola con lo sguardo. «Permettete, signore», fece in russo il principe Andrei, rivolgendosi con tono secco e sgradevole al principe Hippolyte, che gli impediva di passare. «Ti aspetto, Pierre», aggiunse la stessa voce del principe Andrei, ma in tono carezzevole e dolce. Il cocchiere toccò i cavalli e la carrozza cigolò sulle ruote. Pierre, essendo arrivato prima, come persona di casa entrò nello studio del principe Andrei e subito, secondo la sua abitudine, si sdraiò sul divano, prese dalla scansia il primo libro che gli capitò, erano i commentari di Cesare, e si mise a leggerlo, cominciando dal mezzo, appoggiato sul gomito. «Che hai fatto ad Anna Pavlovna? Adesso si ammalerà per davvero», disse il principe Andrei, entrando nello studio e fregandosi le mani piccole e bianche. E qui Andrei si riferisce alle posizioni politiche prese da Pierre durante la serata di Anna e che avevano tanto irritato quest'ultima. E infatti, con l'entusiasmo della giovinezza, Pierre si era lanciato in un'appassionata difesa di Napoleone, vedendo in lui il rivoluzionario innovatore e l'eroe della libertà. Pierre si rigirò con tutto il corpo, tanto che il divano scricchiolò. Volse il suo viso animato verso il principe Andrei, sorrise e fece un gesto con la mano. «È impossibile, mon cher, dire sempre e in ogni luogo ciò che si pensa. Ma, via, ti sei finalmente deciso a qualche cosa? Diventerai ufficiale della guardia o diplomatico?» domandò il principe Andrei dopo un momento di silenzio. «Figuratevi che non lo so ancora. Non mi piace né l'una cosa né l'altra. Ma pure bisogna risolversi a qualche cosa. Tuo padre aspetta. Sei stato alla guardia a cavallo?» «No, non ci sono stato. Ma ecco quello che mi è venuto in mente e quello che vi volevo dire. Ora c'è la guerra contro Napoleone. Se fosse una guerra per la libertà la capirei e sarei il primo ad entrare nell'esercito. Ma aiutare l'Inghilterra e l'Austria contro il più grande uomo del mondo?» Il principe Andrei si limitò a stringersi nelle spalle a questi puerili discorsi di Pierre. Fece come se fosse impossibile rispondere a tali sciocchezze. Ma in realtà a quell'ingenua affermazione era difficile dare una risposta diversa da quella del principe Andrei. «Se tutti facessero la guerra per convinzione, non ci sarebbero guerre», disse egli. «E sarebbe una bellissima cosa», rispose Pierre. Il principe Andrei sorrise. «Forse sarebbe una bellissima cosa, ma questo non sarà mai». «Ma voi, perché andate alla guerra?» domandò Pierre. «Perché?» «Non lo so. Bisogna fare così. E poi io ci vado...» E si fermò. «Io ci vado perché questa vita che conduco qui, questa vita, non fa per me». Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it.